attenzione, binario 10, c'è qualcuno che chiama? Superstar! Dai chi ci balla, ragazzi, dai! DJ Superstar. Tanto un DJ se di quella livelli alti è. A me tocca o no? Un bel tocca tanto. Oggi cazzo non ho fatto le prove. Sono arrivato bene a Ugilo, è la verità. I chiacca a Ugilo mi sento. Ci sentono, dai. Già va bene. Attenzione, 10 Gambio. Secondo me andiamo, chiacca. Andiamo e andiamo. Chiacca, babbo, andiamo e andiamo, chiacca. E beh, doppio Lu. Oi, Lucrezia. Attenta, già non mi ricappa. Forte chiasso, dove sei? A domo tua. Cosa? Dove sei, a casa tua? No, a 25. Bene, stai arrivando, bene, bene. Anche a Osilo arrivavi bene e ti sentivo di lusso. Sono buona con l'antenna, se la buona antenna cabissuria guai. Vabbè, no. Allora, il discorso di questa antenna è più capo metti me lo rende. Essendo sul tetto che è un po' altino, poi il cavo deve fare un giretto un po' strano, perché qua da davanti non me lo fa passare. Infatti, come mi dice, troppo anche di Claudio mi stavo mezzo attaccando con quel tipo. E metterlo dietro il pluviale, non fa se il pluviale vicino alla finestra. Oh, ciao Graziano, grazie, ma è un casino già, un casino, ma cazzo fa, è un casino. Beh, se sta per attaccarti con la gente è meglio lasciar perdere, dai, hai ragione tu. Cazzo, stamattina Roberto Quadrato ha trovato una strada interrotta per andare su a... qualcosa dell'Aquila, al rifugio dell'Aquila, che sarebbe in alto nella punta del monte, no? Dove c'è buon'aria. E Roberto mi ha fatto passare da una stradetta cazzo, da una mulattiera ogni avvusso, lui ci voleva fuori strada cazzo, tutto fango. Io ho detto cazzo di malvato basta, chissà la macchina era impeccabile, vabbè tutta fangosa, vabbè la macchina di Zinga. Già, lo sai le più di ieri dovevi aspettartelo. Ma qua non è che ha piovuto tanto, qua siamo stati fortunati Luca noi, la zona di Cagliari, di Oristano, ho visto cosa ha combinato. Ma quando perché mi si spegne il baracchino, buh? Che te mala! Ho detto che mi si spegne il baracchino, buh? Sto andando, Fabio. Spinotto di dietro. Ma cosa so, no, diciamo che, come si dice, che la zona è bella comunque, quella lì, come la, e sei in alto. Comunque io ho parlato con coso, con Abbasanta, con proprio con quello che aveva fatto l'apparato, ho parlato con Abbasanta, era col camion, lui mi sentiva tranquillo da Abbasanta. Avanti Antonio, buongiorno, buonasera. E scappa, buonasera, Luca, ma guardate con l'alimentatore sta raffreddando. Sì, sì, sì. Cioè chi ci non raffredda è come il computer, si chiuda. Allora io Luca nell'S9 c'avevo un problema, c'aveva lo spinotto che era leggermente largo, mi hanno insegnato un trucchetto per non farlo uscire più, ci metti dei filettini di rame all'interno dei buchetti e poi ci fili, non esci più, è bello duro a casa, proprio si sente che non è più morbido come la prima. Chiaro, il filo mezzo staccato, dai. Adesso l'ho messo bene, non penso che non si spegni adesso, speriamo bene. Sì, no, vabbè, già c'è fresco anche per l'alimentatore, già sta raffreddando comunque. Ma c'era qualcuno che voleva entrare? Un attimino mi assento, arrivo subito, ti prendi già. Ciao, baga, va. Ogni tanto questi apparecchi ne hanno una, soia, fa caridare, io mi viene l'Alzheimer quando mi succedono le cose. Lo so già. Ma qui c'è comunque una cannonata, sì, ho ideato all'ultimo momento di mettere quello in tutto, perché prima ne stavo mettendo un altro, stavo mettendo la LAN 48. Poi ho detto, cazzo, non c'è la banda laterale, né nulla, la LAN 48, non c'è FM, questo qui c'è tutto, e c'è con più watt, tutto quanto. Alla fine ho deciso a mettere quello, anche se è più grande come apparecchio, ma non me ne ha fatti nulla, ci sta bene. No, già va la grande, già. Va la grande proprio. No, una cannonata, io da oggi lo sentivo 9 più 10, Radio 5. Cavolo, ma bene proprio qua, arrivavo in forte a Sassari. Non ce la fa, ma con Francesco arrivare con quel segnale, te l'immagini? Che non ce la fa? A me mi arriva 8, Francesco, 8, 8 e mezzo. Ma è tu diventa un fusso però. Non lo so, anche io ero nei fossi quando mi sentivano Santiago 5 e cose, ero dentro il fosso. Che ciurongo è tutto quanto strano, Perché si infossa poi risale, capito? Quindi quando sei salita i segnali sono tutti segnaloni grossi. Kappa. Eia. Già lo so già, comunque è una soddisfazione, dai. Almeno arrivo, cazzo. Ah, gala, arrivi e come? Anche bene. E vabbè, quando uno c'è la penna sul tetto cambia tutto. Vabbè, quello sì. Ma anche Luca arrivava forte, e poi non ce l'ha sul tetto, ce l'aveva a casa di Marina stamattina e arrivava benissimo. Cappa, è una bomba di Sant'Enna, è una bomba. Te l'ho consigliata io ancora. Ho detto io di comprarle quelle antenne lì, no? Se te compra quelle lì che sono buone le comprano. Sicuro, sì, prendi le due o tre. Tre ne ha prese, tre ne ha venduto, non ne ha più. Lo so. È una cannonata, È una cannonata, va forte veramente. E poi lo sento da tutte le parti, non ha nessun tipo di problema. Come una cannonata la Turbo 2001, sarà alta come antenna, ma è una bomba. Lo so. Oh, io ti devo lasciare già che sta arrivando gente a casa, dai, ce la risentiamo. Ok, te la sentiamo più tardi. Beh, va bene, dai, se sono a casa, sì, da. Non c'è problema. Non c'è problema, tutto ok. Sì, a capo già, dai, magari entra qualcuno adesso, non c'è problema. Secondo me è un po' di più, va, là giù buccia a forza rubino. Secondo me sta andando meglio. Sì, io non ti posso dire nulla perché mi arrivi fondo scala prima, fondo scala mi arrivi adesso, quindi non so che dirti. Cappa, già andate, dai, no, perché prima si abbassava troppo la lucetta. Adesso gli ho fatto, ho tirato appena appena il coso e sta andando un pochettino meglio. Perché stazionaria avevi? Una cosa stazionaria, il filo che mi stava girando le balle. C'è un bambino anche tu, che la ti devo dire, cambia, te lo metti nuovo, così almeno non hai più problemi. Vabbè, avanti Luca, se ci sei ancora. Va bene, dai, io ti devo lasciare, dai, altrimenti ci sentiamo dopo più tardi, ok? Ehi, ciao, ciao. Ah, mi richiamando già. Prova, 1, 2, 3, prova. Qualcuno? Claudio. Benissimo, benissimo, ma dove sei? Lì a Caniga? Cappa, Santiago 910 Radio 5. Anche tu, va bene. Ma tu come mi ascolti in quella zona? Uguale, uguale, 920. Quanto? 920. Ok, dai. Perfetto, dai. Oh. Ma lo stai facendo con la boomera? Cappa. È una bomboletta, sì. Ok, dai, fra, che io ti devo lasciare perché c'è gente a casa, dai, ce la risentiamo dopo. Ok, a fra, ciao, a te. Claudio. Chi è che sta chiamando? Danilo. Ciao, Danilo. Ciao. Marco, una prova radio, un controllo radio, me lo fai per cortesia? Proprio 20 a Radio 5. Uguale anche io, per te. Radio 20, Radio 5, segnale 9 più 20. Ma in che zona sei? Sotto Sant'Orsola Nord. Che cappa, io una bomboletta arrivi, dai, una bomba. Ok, dai, adesso vi devo lasciare, c'era che franco, c'era. Vi devo lasciare che c'è gente a casa, ok, ce la riprendiamo dopo più tardi, ok, ciao ciao. Ok, dai, più tardi, ciao, grazie. Luca. Ehi, ti ho mandato un messaggio. A me? Hello. Luca, digitale. Mica ti stava chiamando Danilo, vedere come c'è con quell'altra radio. Danilo? Dov'è che stava chiamando Danilo? Io adesso ho sollevato il volume. Dov'è? Ciao, Cla. Ciao, Danilo. Come sto uscendo con questo 7000? Fammi la cortesia di farmi sapere. Il telefono normale? L'originale è questo. Meglio di quello che avevi prima con l'MC60. Ma questa radio con questo microfono originale o devo mettere l'MC60? No, questa radio sta uscendo meglio di come uscivi con quella che avevi prima con l'MC60. Ah, già andiamo a farli a comprarmi lo spinotto per l'MC60, a collegarla a questa qua. Lo sai, il maestro di quelle cose che mi chiede a Luca, io manco se mi baghi, non c'ho niente da poterti aiutare, nulla di nulla, se no ti devi ordinare il carretto suo originale. Ripatto a 8 Kenwood. Infatti stavo pensando a farlo così. Almeno ce l'ho col microfono, con l'MC60. E ti costa 60 euro il suo carretto. Capito? Ti costa il suo carretto 60 euro, quando tu prendi il materiale. Dai, se da Luca e te lo fa Luca, per risparmi. Se lo compri ci voglio minimo dalle 40, io allora il carretto per il 706, che poi ho batto assieme al 706, ok, l'avevo pagato alla CIA Song esattamente 35 euro più 8 di trasporto. 43 euro. Se ti invece vai a Fusaro, compri uno spezzone di cavo schermato, Luca ti dirà come vuole, il clip, il connettore che ci vuole, eccetera, cosa spendi? 10 euro? Altri due ne dai a Luca e si appoggio. No, Luca mi dà un'altra cosa, non mi dà i soldi. Vabbè, io dico per come sono io pure, per quello che sono gli altri non lo so, però capito? E risparmi tantissimo, poi non lo so. Non cambiare le connessioni all'MC60 perché poi è un casino, comprati l'adattatore o fatti fare l'adattatore. Infatti non lo voglio modificare nel microfono e nel cavo, perché magari metti che ce lo, me lo tengo, poi un domani me lo voglio vendere, che se devo rimettere tutto quanto a posto, non aggiungare ad essere l'amico così tanto io, a stare smonta, rimonta, perché dopo esco di testa e basta. Ma infatti, non so, Luca, come lo senti tu a Danilo? Bene, per essere un microfono normale va bene, claro. Però l'avevo detto anche a te, quando l'hai provato riuscivi molto bene con un microfono normale. Allora mi tengo questo, da tanto già non mi cambia niente a me. Allora, infatti, cosa stai a fare? Connessione, contro connessione. C'è il microfono sul originale, non c'è il microfono sul originale, no? Capito? Poi, in linea di massima, se ti piace la radio te la devi tenere, ti compro un bel SM20, ti fa mettere il connettore a clip, dove lo compri, perché lo fanno, e lo inserisci direttamente, diretto. Ma tu pensi che l'SM20 in confronto all'MC60 è meglio con questa radio e con la mia voce? Io ho sia l'SM20 che l'MC60. L'SM20 sulla radio Icom è spettacolare, non è l'MC60. L'MC60 ha un sistema di preamplificazione completamente diverso, quindi è il suo microfono. È il suo microfono, l'SM20 ha fatto la storia con la radio Icom, quindi... Andavera. Allora, prima di fare la modifica devo pensare. Devi pensare sì, ci devi pensare bene anche. Perché se fai la modifica all'MC60 direi di dire sì. Capito? Perché l'MC60 per fare la modifica hai visto com'è il carretto. Non è una cosa da bagucino, devi modificare tutto il sistema. Quindi devi cambiare il clip sulla radio e devi lasciare il 60 col connettore suo, però poi lo devi ricambiare, eccetera. Quindi ti conviene comprarti un adattatore femmina che attacchi direttamente al 60. Luca lo sa, ce l'ha fatto lui, quindi chiedi a lui. Cosa si rimane a me che non è comprando un accidente? Vai lui. Simpatici per quel motivo, le spinette. Cavaiava! Non stai uscendo bene lui, c'è un rumore di alternata, prova. Ancora? No, adesso no. Non io mi ha detto che stavo uscendo metallico. Ho abbassato il mic gain. Ma non ho regolato, cazzo, lascialo come te l'ho messo io. Che andava benissimo. Lascialo stare come era prima, 4, quant'era? Ah, sì, aspetta. Che affannato. Sì, 5. Adesso è a 4, vedi un po'. Sì, ma c'è qualche falso contatto lì. Hai un rumore di alternata, rimane la modulazione graffiante, poi sparisce, poi ritorna, poi sparisce. Infatti glielo ho detto anche io che ce l'aveva così la voce. Infatti gli ho detto, cioè la voce è metallica. Infatti ha messo uno straccetto davanti e l'ha fatto sparire quel rumore. Guarda così se è cambiato qualcosa. Così va bene. Ma è la spinetta che non è incastrata bene. Nella radio. Io qui te lo odio per quello, cazzo. Se si rompe quel blocco che c'ha, quel gancetto, cazzo, mamma mia. Tu immaginati una volta. Non lo ricordo. Cazzo, allucinante. Giampaolo Gianpaolo Silvestro, va via, una radio utile, utile, già mi telefoneggia. Non sparire, droga lui. Poverino, cazzo. Oggi mi sa radio, ti ricordo, diciamo, ha raccontato che poi al Cimera 705, una cosa del genere. Mi si è caccato il microfono, ha detto, cazzo, Gianpaolo, è un casino è adesso, perché... Quella, ma quando ti si è rotto il gancetto che tiene il clip attaccato? Ehi. Hai detto, adesso è un casino, bisogna rifarlo, metterglielo nuovo. No, allora sai cosa ti ho fatto? Va giù buco, un attacco. Cazzo l'attacco? Ehi, è entrato il clip, no, siccome ne usciva perché non agganciava, non faceva lo scatto, gli ho messo l'attacco. Tu immaginati che quando ha venduto quella radio gli ha dovuto dare con tutto il cavetto attaccato, a chi, come faceva a togliere quella l'attacco? Babbo! Per dirti no, quindi io li odio queste radio che fa, mai, non ne ho mai, inizialmente qualche donna mi è capitata ma l'ho fatta fuori subito, mentre invece 706 immediatamente subito come era arrivato io ce l'avevo già l'SM20 perché avevo due ICOM, ne avevo tre di SM20, cioè di cui uno l'avevo dato a te mi sembra, Luca, uno a Antonio di Monteoro e uno me lo sono tenuto io che ce l'ho sempre. Subito ho chiamato e mi sono fatto fare l'adattatore, mi hanno mandato l'adattatore, l'ha clippato, non ho mai toccato niente, come hai visto l'SM20 mia, originale, perfetto, la cosa che non capisco è perché da te non va col 706, quello non riesco a capirlo. Non lo so, devo guardare... Sai cosa devo guardare? Allora, siccome l'ICOM non c'ha batterie. Ma chi dice le batterie va? Tutti i connettori a 8 volte hanno l'alimentazione. Quando hanno il centrale hanno l'alimentazione dalla radio, perché se l'SM20 batterie c'ha. SM20 non ha batterie. Io 60 devo usare con le batterie. Con le batterie? Sì, ha ricordato adesso, è normale allora, perché tu nel clip hai eliminato praticamente l'alimentazione dalla radio. Esatto, sì che il 60 lo sto usando con le batterie, capito? Poi devo controllarmi la tensione di questa radio, devo controllarmi il pin della tensione per vedere se c'è tensione, capito? Se ci sono gli 8 volt, che qua mi sembra che sia il pin 2 se non sbaglio, me ammento. Sì, mi sembra il 2 perché nel clip non apparecchia il 4, sì, il 2, adesso non mi ricordo se però lì com'è 6 volt o 8 volt, non me lo ricordo lui, non voglio sbagliare, però la tensione c'è, vai tranquillo, la tensione c'è, se tu le fai il clip con l'alimentazione diretta dalla radio rende molto, molto di più l'MC60 e non ti crea problemi né di neschi né di niente, problema tuo è anche quello. Vai Danilo. Vi stavo ascoltando. E come mai Luca esce meglio con quel microfono? Con quale? Col 60. Perché esce meglio con quel microfono? Meglio in che senso? Meglio di quale radio? Col 706. Se ci mette l'MC60 esce meglio, perché? Perché un microfono c'è amplificato. ficcato, cosa eccetera. Però se lui mette il microfono normale, non pensare che si allontani molto. Io il 706 l'ho usato anche col microfono normale e ti dico che spinge parecchio. Però lui non sta usando l'alimentazione diretta dalla radio. Siccome, sai perché gli ho detto così, l'abbiamo detto così, perché io gli ho dato l'SM20, l'ho detto tollo, provalo, almeno c'è il microfono della ICOM, poi se ti va bene magari mi dai il tuo, mi dai il 60, non c'è problema, provalo, l'ha scollegato, messo il clip e tutto, però lui nel clip suo, quello che è attaccato alla radio, non ha l'alimentazione a 8 volte, quindi non alimenta l'SM20, infatti sciva solo, l'importante del radio non sciva perché non era alimentato il circuito, perché l'SM20 non ha batteria. Quindi l'SM20 vuole collegato, alimentato dalla radio direttamente. Diretto, tu se ti compri l'SM20 o decidi di usare l'SM20, devi farti fare il cavetto ICOM originale, clippato a 8, uscita a 8, con alimentazione diretta dalla radio, ricordati sempre queste cose, se dovessi ordinarlo, cavetto di alimentazione diretta sull'SM20, adattatore diretto, ok, a 8 pin, capito, in modo che tu c'hai l'SM20 collegato direttamente all'alimentazione della radio, perché non ha batteria, se no non ti funziona. Sì, già l'ho capito che non ha batterie, e già l'ho visto anche nel mio che non c'ha batterie, infatti sto uscendo di testa a capire come si inseriva la batteria. La volta scorsa infatti ho detto ho provato a girare la testa in giù e Luca alla fine dopo mi ha detto no, non è a batteria, è alimentato dalla radio direttamente. Ecco perché. Sì, infatti Luca se ne è ricordato adesso, non te ne sei ricordato Luca, ecco perché usciva solo l'importante. Dani, questo è il microfono normale, il microfono originale. Ecco. Senti come esce bene Dani col microfono originale, registrato il becco. Faglielo sentire Luca. Aspetta, ti aumento anche il mic gain. Oh, 9. Adesso al massimo il mic gain, vedi un po'? A me Dani? Sì, è più limpida la voce, più chiara. È bella Luca, è bella. È bella, a me piace più dell'MC60, credimi. Bella corposa, è molto forte. Avanti Becchi. Ciao Claudio, buonasera. Sto provando un portatile, come sto arrivando? Non è portatile, dico che c'è 80. Santiago Nova Radio 5. Lo conosci, conosci l'ostacolo, buonasera a tutti con me. Allora, portatile, va, diciamo, modulazione, si intende l'attacco delle 60 da 4 km. E poi modulazione corposa del Kenwood. DSC80, gran bella radio anche quella, sorella del 140, ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Avanti Danilo. Sì, già l'ho sentita anche io. Anche io telefono Radio 5. Però quando inizia a parlare passo passo poi sale subito di volume. Chi fa? Sì. Boh, cos'hai detto Luca? Luca faccia sfidato il telefono. Avanti Fra. Ehi ciao Franco, ma non sto facendo bene nel radio qua. Una bomba, cosa non sto facendo bene. E poi dice che non mai bottito. Questo era il tuo 1080. Io lo so che era il mio, già lo so. Conta quanti anni ce l'hai, hai visto come vendo le cose io da lì, eh? Vai, tocca a dire a Franco che ci sono 80. Una vita ce l'ha, mai fatta una riparazione, mai niente. Buono. Ehi, ma poi ci vedi anche quando sai che è la tua radio quella lì. Ehi, io Franco abbiamo imparato a farci delle cosettine, quindi capito. Quello che dovevamo fare a quella là che capito, già mai capito, però c'è altre cose quindi non si può fare, se no abbiamo il boccaggiotto che finisce e esci da un capolavoro. Va bene, va bene. E allora Fra, casa sì. No, veramente sono in campagna adesso. Sta pilotando 50 modulati, Non posso aumentare ancora, se vuoi. No, lascia stare qui, sei quasi 9 più 10. Già va bene, non lo forzare. E infatti, perché il progetto sta andando con la boomerang, capito? Ah, te lo va a arrivare. Sei 9 più 10, 9 più 5, io sto andando con 20 watt di portante. Quasi 30-35 modulati, va bene, anche questo è 140, vanno bene queste radioline, dai, non sono eccezionali ma già vanno bene, si difendono, avanti. avanti, Luca ci sei? No, Luca al telefono, riprendi Daniele, ricordati domani mattina a me. Ehi, Acclam, ce l'ho in mezzo ai piedi adesso, tra il piede destro e il piede sinistro, quindi non comprendi male. Ehi, già me lo ricordo domani mattina. Intanto non graffiarlo, così te lo mandiamo, ce l'abbiamo delle luci. Mi ha telefonato anche oggi, vabbè, ma mi ha telefonato per altre cose, perché voleva sapere che ingombro aveva la 5 elementi, perché mi è rimasta ancora la 5 elementi per i 6 metri. Voleva sapere che ingombro aveva. Ma guarda tutte le misure, capito? Perché molto probabilmente voleva mandarla a spedirle anche là, ma ormai già c'ho ancora del cartone a rotoli, che ho imballato con la grande. Così io spedisco anche quell'antenna. Siamo sentiti al telefono, adesso mi chiamerà più tardi all'ora di cena oppure domani mattina, capito? No, questo è un carissimo amico, non ti preoccupare, non è un problema, infatti ho detto solo devo voglio cosa c'hai, e vabbè adesso vedo se ci sta, poi ti chiamo, ci mettiamo d'accordo, facciamo sempre questi scambi, capito? Avanti California. Ascolta, adesso ho fatto una modifica sull'MB4, sull'MB4, microfono a tavolo, e ora voglio provare lo stato d'adattamento sul film, con l'alimentazione 8 volts. È un bel forte la radio, un bel forte. Allora, questo è l'MB4 adattato con l'alimentazione del film. È un po' troppi bassi c'hai. Se fosse stato un MB più 5 da regolare i toni troppo bassi c'hai più toni bassi che acuti, però è chiara la voce. Guarda, adesso l'ho abbassato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sempre toni bassi c'hai, mi mancano gli acuti, hai troppi toni bassi, capito fra? Con il K ci vuole MB più 5. In modo che perlomeno per la mia voce, in modo che regolo leggermente i toni e vado a spingere con gli acuti, altrimenti diventa troppo cupa la modulazione, capito? E K, dai. MC60, non c'è niente da fare. No, ma quando parliamo di Kingo dobbiamo parlare di microfoni serie, di radio serie, no? MB più 5, più 4. È nato per i baracchini, io guarda, ne ho 5, molto probabilmente ne dovrò prendere anche un altro. Domani mattina vado a Fusara e ce ne ho un altro, perché mi è entrata un'altra radio vintage, voglio metterne un altro MB più 5, non mi voglio microfono da tavolo, da palmo io. Sono tutti con l'MB più 5, tutti. Più ne ho uno che è dentro l'armadio, che però ha connettore Kenwood, a 8, alimentazione diretta, che non l'ho fatto io, l'ho comprato già così, nuovo. E quello lo lascio di scorta, non si sa mai che serva per qualche K, però i baracchini sono tutti col più 5, che sono microfoni che puoi regolare i toni, ci sono alcune radio che hanno il modulatore molto acuto, altre che ce l'hanno molto più basso e quindi devi dare una regolatina, capito? Io preferisco il più 5 e il più 4. Vai Dani, mino l'orografiammi, cerca di dirmi dov'è che c'è cosa. Ehi, già è dentro la pista come me l'hai visto, come trovato l'altro giorno. No, già le tengo bene io le cose. Non so quelli che ti gassi che ci naffuttini e facciano il tutto. Franco, da dove stai modulando? Fai il favore. E guarda, io sono in un fosso proprio, Canica. Canica, come mi senti a me? 5-9, sì. 5-9? Ma che considerai che io sono in un fosso, Anche io sono ai tiri di Sassari proprio alla fine di Sant'Orso, la nord. KK, 5-9, la radio è buona, abbastanza discreta, dai. Sì, e io sto pilotando con una boomerang adesso, 50 watt modulati. No, Luca, questo qua me l'ha tarata a 5 watt e non so neanche come si alzano i watt questa radio. Stavo provando a leggere il menu, ma il manuale, ma è tutto quanto in inglese. Puoi entrare nei parametri. Non lo so io come si fa. Devo imparare piano piano. Poi con l'attaccato mi sa il computer, col cavo. Ce l'hai il cavo per attaccare il computer? Sì, già ce l'ho. Vabbè, ti hanno dato anche il dischetto. No, il dischetto invece non me l'hanno dato. Vai. Devo chiederla a Luca come mai non me l'hanno dato il dischetto. Di solito danno il dischetto per entrare nel menu. Luca, magari sta ascoltando, ma non può entrare. Era ora. Sto uscendo, sto usando il patch. Cos'è che hai detto? Sto usando il microfono patch, il baracchino patch. Ah, fate tutto. E furre anche lui. Aspetta, il sistema, lo faccio vedere io, questo fa a tavola. Aiuto, togliete il baracchino, che c'è troppo maledame. Pulizia, per favore, dai. Pulizia, perché sono... Ma io, ma che ghiacciato. Mi l'ho immaginata, se va a fondo a scala. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, cazzo, che sei dietro di me, però... Io ve l'avrei pensato le mani a questi che usano lineari. È vero, per carità. Mi toccherà attaccare un giallo. No, lo sai cosa ha fatto. Ha puntato la direttiva dritta verso di me. Sì, ma lì c'è entrata che avete fatto, non ci siete solo da nessuno. Come capiglia rubirerategu? Perché io posso. Tu perché sei grosso e mantieni un bel colpi. Se per quello io posso, quindi me la sento. No, io non me la sento più. E comunque buonasera, Scherzo, buonasera a tutti e due. Ciao Tino e ciao Antonio che si sente a riserva. Va bene, va bene. Oh, ma cazzo, non apprezzate mai un baracchino di quelli vecchi, gà? Lasciate parlare a Luca, gà. Luca! Ehi, non mi lasciate parlare però. Sei brutto. Ma, oh, ciao, Cla, ben ascoltato. Ma se sta uscendo a mettere un fruscio della zonca? Cazzo, che c'è, la nuova trombetta. Ma proprio brutto, Ma che radio è lui? Quella che ha mandato la foto a me, chi c'è di regna? Ehi, guarda così. Ascolta, io conosco una persona che sa fare anche le stufe. Siccome è di legna, metticela dentro. Che c'è bella, No, sono in quella discesa, in quel tubo in discesa. Anche tu l'hai vista. Cazzo, ce l'ho vista. La metti da sopra, apri con lo sportellino, ti racconti fare la ragione, senza il pinilla. E allora, quella va bene, fatta a fettine, lo sai come si fa, e si imbucca. Ascolta, Luca, quanto vuoi per quella radio, vai? Aspetta, di mettere il microfono a tavola. Dalla a me, ce l'ho io il microfono di tavola. Guarda, con quella voce che sta usando, perché sta modulando, 30 euro e ti dà anche il rossetto. Luca, metti l'inuit che ti ho dato io. Non sanno apprezzare, Dani. Se te lo voglio comprare vuol dire che lo apprezzo io. Scusa, dimmi quanto vuoi. Non lo prendo io. Che collettore c'ha? 4, 6, 5, com'è? È brutto, Cazzo, non mi dire che c'ha il connettore come quello che c'è stato 3 giorni, no? Ah, lui, come quello di Roberto. Mamma mia. Come con i pin? Se li do a innesto, metti. E i pin ci sono? Sì, io 5. Mamma mia, si devo che sul caddi. Cazzo, io non ne do quelli 10 minuti, che ora mi rimasto tutto in mano, c'è tutto a me, Antonio, se uscite tutti i punti, non ne comprendo più un cazzo. Io conosco uno bravo che lo sa fare. E che è? Antonio Riserva, non faccio nome però. L'unica cosa che devi fare, devi mettere le impedenze giuste poi, quando ti sposti, perché dentro ce l'ha delle impedenze, se no poi ti fruscia, ti innesca, ti fa... Vabbè, dai, Luca, passalo allora, Antonio, fai preparare tutto, così te lo compro io, vai. Ma dimmi tu, non mi zicchetti a meno, che sono in pensione. No, ma non stiamo cercando a te, stiamo cercando Antonio Riserva, tu chi sei? Ah no, sono il fratello, quello più piccolo. Vabbè, e allora, Tino, questo è il fratello, Antonio non c'è. Ma Tino ha bruciato un lineare. Ah, claro, che cosa li voglio fare? Catta, allora io cambio apparato, sì così. Ah, claro, non sai cosa gli voglio fare? Sì, il microfono normale, originale, anzu. Voglio mettere lo spinotto a 4, capito? Che brutto, Sì, ma è una cosa allucinante, guarda che io non ho visto il microfono originale, ma questo lo sembra qua. E me, ma mi senti, come sono? Preciso! Poco fa cosa ha detto? Ma non sai cosa voglio fare, gli voglio mettere lo spinotto a 4. Io, Antonio, quando parla e si mette a iniziare la gente, te la fa precisa. Cazzo, ma è avvenuendo? Ma no, solo quando magari ci imita tipo Pauletto, qualcuno, un'altra gente, intende preciso. Che respiro sa fare di Pauletto? Perché è meno peloso. E Orso, Orso, gioca con me. Queste cose, Masha? Chi è il mio cucciolo? Chi è il mio cucciolo? Comunque, sì, effettivamente non è brutta quella radio. È che magari vuole fatto qualche accorgimento. Ma va, metti un microfono serio, un predicato. È un po' cazzuto e va bene, uguale. Sì, più cazzuto ti dice che giù io. Una, due, tre, quattro e cinque, vabbè, il quinto non funziona, e c'è uno della precipice al tavolo e uno della D, tutti nei vintage, tutti i microfoni al tavolo, ma sono bene me. Allora, voi sì, lasciatevi dire, lo farò rottino. E non mi dici che è finito di mangiare a mano? No, no. Mm. No, però, insomma, ci sono ancora dei residui. Ah, bene, bene. Avevo quelli arrosto oggi a tu, quindi. Ui, poverino, quando mi dispiace, va, che sacrificio. Cosa avevi di? Quaglie, quaglie arrosto, capocollo e viandante. Minchia, quaglie, sono Johnson da mangiare. No, io me le faccio sempre, però me le faccio alla cacciatora. Arrosto, non lo so, non gli trovo sapore. Aspetta, insomma, arrosto, se te le fai come le prepara mamma, per dire, c'è un altro tipo di sapore. Le fai, le facciamo col peroncino con l'olio d'oliva e poi impanate a pane grattugiato e poi le metti a arrostire. E praticamente diventano un pochetto. Poi, così le vorrei lasciare una squisitezza. Quando le va, guarda qua, io sono amante della carne, forse qualche amico lo sa, però molte volte, sai, per non fare sempre la solita carne, tipo pancetta arrosta, belle varie, no, mi viene voglia di farla così, tipo condita con aglio, prezzemolo, peperoncino, sale, olio d'oliva e pan grattato, è fatta la brace. E ti dirò che cambia un pochino il sapore, però è buona uguale. È una sorta di impanata non fritta. È buona, pronto. Cambia, fidati. No. Poi se vuoi qualche consulenza, una domenica, mi avvicino, le facciamo assieme. Non c'è nessun problema, sì, però le voglio provare, perché io comunque, sì, la carne arrosto già lo sai che a me piace tantissimo, la faccio spesso, quando vado in campagna faccio carne arrosto. Qualche volta mi capita di fare roba al forno, ma proprio su 10 domeniche 0,5. Lo lanciate a Danilo, Dani? Sì, ci stavo pensando adesso, infatti a farlo entrare, Danilo. Sì, dimmi. Ma riprendi anche tu, parla delle tue esperienze di Carbonella. Di Carbonella? Calamari arrosto, bene ti vanno. Guarda, io non ci butto neanche la buccia. Sai che attira un po' la buccia dei calamari. Quindi l'unica cosa che ci puoi buttare è il becco. Sì, è vero. Oh, claro, una volta stiamo facendo lavori da Walter. E Luca mi dice, la carne la prendo io, vabbè, prenderla tu, cazzo, non è vero, con questo salsiccione, cazzo, dai finocchietti, poi una bomba, buoni, Se poco è buono, sai che lo fa qua, ma davo, nella piazzetta dei carbonati, io quando lo preparo quel salsiccione lo prendo sempre, cazzo, ma è di un buono allucinante. Vabbè, adesso c'è tempo brutto, dobbiamo lavorare all'interno, ma quando sarà che faremo l'esterno, dobbiamo continuare a inaugurare il barbecue. Oh, il più buono lo fanno a Monarca, dove mettono la carne a macellare nella fornace dei barattoli, molluta, eh. Il più buono lo fanno a Bitti, non l'hai visto? Cazzo, a Bitti, poveretti, poveri disgraziati. E c'è un casino che ha fatto. Casino? Cazzo, le porte degli ingressi delle case, ha oltrepassato la terra e tutto quanto che ha travolto il coso. La piena l'ha oltrepassata il primo piano, in poche parole, anzi, la roba di danno che ha fatto. Ma quello è il Rio Manno, quello che faccia Bitti, quello non me lo ricordo. Comunque, secondo me la prima cosa che ho pensato è qualche lago, qualche fiume ha dirappato e ha fatto la piena da qualche altra parte, ha deviato da qualche altra parte, perché è impossibile che una pioggia così ti faccia quanto quel danno. Stavo parlando oggi a Canale 5 e dice che ha fatto più di 250 mm d'acqua, mi dice un bel mese. Oh, a parte, vabbè, diciamo, era un argomento differente da quello di Bitti, ma avete visto quei tipi che se non ha fatto il certifico alla salma di Maradona. Allora. Sì, ma mi hanno mandato ieri stesso, mi hanno mandato la fine che ha fatto il tipo che si è fatto la, il selfie. No, io ho visto il pezzo solo, ma è impressionante. Cioè, non è che l'ha già fatto. No, no, l'hanno cucito, l'hanno cremato, l'hanno messo un grabo, gli hanno aperto la, il torace, gli hanno aperto la schiena e poi l'hanno ucciso e l'hanno messo dentro un cassonetto. Quello che ci ha fatto il selfie? Sì, sì, sì. Ecco, non ho visto tutto il video. Bene, coglioni. Adesso sono in cerca degli altri due. Che sono le gaga, allucinante. Certo non è una cosa bella, soprattutto per rispetto per chi si è andato. Claudio Petisella. E lui? Luca, sali e scendi. Come? Master. E beh, Lu. Ecco, vai qui. Buonasera a tutti, buonasera, sono qua, qua, qua, qua, qua, qua, non ascolto, dai, da lontano mi sentivo, l'altro giorno. Qua, qua, qua. Chi è che c'è? Tiro, ciao a te, ciao Claudio, poi? La giracca di Gamboni. E poi ci sono io. Chi è? Ecco, Natale. No, non succede la Zonca. La Zonca? Sì, la Zonca mi dirà che è la Zulia. E boh, chi è? Luca Flippa, c'è cioè Danilo, io, Antonio Reserva, Tino e Bim Bum Bam. E tre caballacche. Positivo Cavarroglio, non ci sono problemi, ora vita mia che... Stereofonica. Bagnato Pizzoni. No, Antonio Reserva, tu sì che mi te camminevo qui. Hai finito, molto coglione? 2, 4, 3, 3, 6, 4. Ah, molto figlio di... E cosa, Maico, cosa facciamo con questo televisore? Zero lampo, lo compriamo nuovo o lo aggiusti? Cazzo, claro, io tu portamo, no, un'occhiata, se si può riparare, bene, se ho preso il culo dentro la... Guarda, l'autopacco ce lo porti. Ma ci quante pari trovare anche altro conversatore? Cosa c'è difetto l'altra volta, Luca, che durato 2 anni che ci ho giambato, quindi... Capito. L'ho spento la sera, sono andato a riaccenderlo l'indomani perché c'era la partita canale 5 che me la guardo qua e non la preso più. Portamelo domani, te lo controllo, portamelo. Che l'hai spento, se lo lasciavi acceso il condensatore rimane per la tensione non si spegneva più. Zeta che mi voglio dire, poco il cane c'è televisione. Si pone la faccia a gatto della te la rostisce. Beh, usala come braciere. Ma che cosa così, ma perché è vecchio tu? No, cosa c'entra? No, ne ho anch'io alcune. Sicuramente invece di essere LCD sarà alogene, di quelle le prime che hanno fatto, senza LED. È la lampada. E la lampada, aveva sì. Capo santo scalda, minchia. È un Mivar HD, boh, avrà 26 anni, era di mia suocera. Schermo piatto, insomma, grosso, più grosso, no, come quello che c'è nel salone. Però scalda un bel, minchia, pochi calli. Ma, scusa, tiritelo ancora un po', e vanno a far culo. Infatti io, quando c'è freddo, accendo la televisione qua. Ma te lo metti sotto il tavolo, no? Lo lasci con l'antenna scollegata, lo accendi solo per scaldarti le cosce. E l'uccello mi scalda la notte. Ti sarebbe piaciuto, ma per non ci vuole la televisione, per scaldare il tuo ci vuole il fuoco. E non la giri. No, è un ricordo, cazzo. Ma nuovo, ma Luca l'ha già messo a posto una volta, lo stavo buttando via, ma lo buttare, non lo controlliamo. Ha cambiato un condensatore, ha ripreso a funzionare, ma più di 2 anni, boh, non mi ricordo, forse anche di più. Non attendi d'ora, non accende la lucetta rossa, capito? Si sarà crepato il condensatore a fianco. Sì, la B2. Mi avete invitato in 12, mi 12 che parlano. Cosa hai detto lui? Chi è che ha parlato fino a me? Forse non io, non lo so, buonasera a tutti. Ho detto compratelo nuovo. No, non c'è bisogno di comprare nuovo, questo non ci butta. Questo ci ripara perché è un ricordo, capito? Già basta che ci rimbaggio i televisori. Vabbè. Kappa, perché adesso stanno scendendo anche col nuovo sistema, tutto gatto, vuol decoder. Infatti io quello di cucina non so se compro il decoder o se compro il televisore direttamente. Anche perché c'ha i suoi anni, buh. Certo, c'è il decoder incorporato, c'è il decoder esterno. È già pronto all'uso, non c'è un problema. Deve solo accendersi. Capito? Poi c'ho altre 3 smart TV siamo già attivi. Consumismo, consumismo, sempre a comprare, a fare, ma insomma, ciao Gianni. Ciao T, già non credersi. Chi c'ha i soldi T così è. Per forza, chi c'ha i soldi fa consumismo. Io faccio così con le mutande, quando si bucano me le compro nuove. Io qualcuno che ne aveva sempre uno fuori, ma me l'ha detto uno quanti ieri di meno, che... Vai, le mutande. Buca. No, quello è mio padrino, Antonio. Quello è mio padrino, già lo conosce Tino, capito? Quello è mio padrino. E quando nel momento si sporcava la cazzo la maglietta, la cosca, nuova nuova, XGXGXGXGL, capito? Se la sporcava, andava in macchina, ancora ce la buttava la cassonetta e ce la metteva una pulita. Luca mi ha fatto acquistare tramite uno di Luca, ha contattato lui sicuramente, una maglietta la Icon, no? E poi acquista anche a me lui, dici io, vabbè, una maglietta della Icon, è sempre bella averla. E poi sono taglio un po' grande, mi ha detto, vabbè, prendiamo lo stesso. Ci stavo io e Walter dentro. Ma era lui che sembrava un lenzuolo. Ma cazzo non ci credi, io mi sono spaventato, 4X ci aveva, 4X, figurati che a me c'è la gonnella, ma tu non la buttare, cazzo, vado a me, ma la quando la tengo io. Cazzo, mi ha messo come c'è zia Arinucci, Luca. Claudio, Petisella. Eia, Catarella. No, Gianni, non è il problema di comprare. Adesso voglio vedere se si può riparare, lo tengo. Se non si può riparare, lo butto, chiaramente ne prenderò un altro per qua, per lasciare la radio. Però è un ricordo, capito? Non lo so se lo butto. Lascia che lo metto dentro un cartone e lo porto su una sala. Rimane in chivi. No, anche a me quello che mi ha aggiustato Luca sta funzionando, e quello che dovrebbe avere il decoder, perché non è uno smartphone. L'altro sì, quello che c'è in sala è smartphone, è anche 3B eccetera eccetera. Ma questo qua, quello che si cucina, praticamente non è smartphone, è un LG di quelli che praticamente davano con i punti della S, ti ricordi quando, non so se fosse Tina andava lì da Unida, c'erano i punti della S, ho fatto i punti, mi sono preso il televisore, un bel di roba, la caffettiera, quella elettrica che si accende da solo alla mattina, che c'è il timer, tu li metti il timer e a quello là lì ti prepara il caffè da solo. Ma i soli demo su 20 anni fa, già. Ma smartphone non ci mettesi TV, comunque vabbè. Vabbè, cosa avete? La TV ti bevoni in busciacca e le telefonegge. Ah, sì, andiamo, ma ce la fai domani a portarmelo questa TV? Cosa? Domani ce la fai a portarmela. Ce la vediamo, domani mattina picchiamo. Te lo dico, domani non è mio, non so cosa c'è di programma in questa casa, ogni lunedì vai lì, vai là, vai qui, vai lì. Io alle 8:20 c'ho un impegno, se tu sei in giro da presto io devo fare una commissione domani mattina prima delle 8 e poi alle 9 c'è il cane e poi non lo so. Io sono a casa della mamma qua, fino a mezzogiorno, là, 11:30, mezzogiorno meno un quarto, là. Fallo così, poi tra una cosa e l'altra. Se arrivi a quell'ora bene, se no te la prendi come te posso, ma a cai al vero. Va bene, ci sentiamo domani mattina, Lucaria, perché ti ripeto, è darti un appuntamento e poi non passare e mi ci girano i bb, capito? Domani mattina ti chiamo e te lo dico, poi ti ripeto, io adotto nuovamente c'ho un appuntamento di QRL. Poi devo rientrare a casa, portare il cane e poi tornare a uscire. Se vedo che la situazione è tranquilla, ti avviso, lo stacco e intanto è attaccato al muro. C'ha due ganci attaccati al muro, non c'è problema, lo stacco troppo. Ok? Davanti a chi tocca? A me. Luca! Avvisi? No, mi ha mandato un video, bello, bello, sì. Sì, molto bello, interessante con quella radio, io non l'ho mai fatto così, col video esterno. Va bene, davanti ti. Ma a quale video ti ha mandato? E chi te l'ha mandato, Luca? Sì, quello del monitor esterno del 707. Ah, pensavo un altro video del microfono. No. Ah, quello del pace. Non so se si chiama così. Vabbè. Gappa. Grazie anche a Riffescia. Oh yeah. Va. qui se la smettete di prendere il